comuni, sono state chiuse tutte, non si può fare niente. Quindi questo è per darti un'idea. Sì, io ne ho installato due, una nei due camper, una a doppio DIN che c'ha tutto, tre camera, eccetera, il telefono, Bluetooth, il navigatore. E poi un'altra singola DIN che si apre, diventa, esce lo schermo, eccetera. L'unica cagata di questa radio nuova, che non ho capito per quale motivo, non hanno l'RDS. Ma no, onestamente non mi è mai capitato, anzi, tutte le radio che prendo io hanno l'RDS anche oltre. Dico solo una cosa, che fino adesso non ho trovato una radio data dalle case costruttrici della radio di serie che sia decente. Cioè sì, il suono si sente, ma io non voglio solo il suono, che me ne frega del suono. Io vorrei qualcosa d'altro, potrei in caso di necessità mettere il video, controllarmi le telecamere dell'auto, insomma tante cose accessorie che loro non ti danno, non solo non ti danno, ma te le tolgono pure, perché della Sony ad esempio il sistema per aggiungere la telecamera anteriore costa oltre 300 euro, cioè, ma ti rendi conto? Cioè, un ingresso video 300 euro è una pazzia. E lì sono proprietarie le cose, queste ditte, per dire la Ford, la Volkswagen, cioè fanno costruire apposta questa radio su di misura loro, su applicazione loro, eccetera, eccetera. Ormai le macchine stanno diventando, cioè le macchine non le compri più, prima le compravi per l'estetica, adesso le stai comprando per gli accessori, per dire eccola, c'è un autoradio, un display da 15 pollici, c'ha l'ingresso per il DVD, non so come, c'ha la pennina, non so cosa puoi mettere, tutte le cose, cioè guardano più queste cose quando comprano la macchina, poi magari vedi un bidone di motore e non ne frega niente. Sì, ma perché Claudio è andato via. Dice che era ancora Rix, confermi Claudio? Questa è quella della riparazione, per capirci qua. Sì, sì, no, già l'ho avuto anche io quella radio lì. Diciamo è l'antagonista del 140, il 440 è superiore come radio, però nel suo piccolo riesce ad andare bene, dai. Non possiamo dire niente, diciamo se uno non ha grosse pretese va più che bene. È un po' rumorosa, io la sento come radio rispetto ad altre della categoria, però in banda laterale dice che va più che bene. Sì, sì, infatti. Ecco, ti volevo dire, boh, non me lo ricordo più. Vabbè. Comunque anche questa è fatta, adesso questo apparecchio è gestibile. Non so a cosa servirà tutta questa grossa operazione che ho fatto, ma insomma, qualche cosa ci ha guadagnato da questo apparecchietto. Tutto lì. E niente, adesso cosa mi devo dedicare? Devo fare un microamplificatore, me ne è arrivato uno poco fa, ma è troppo grandicello, mi sa, a meno che non lo modifico. E tutte queste belle cose. E praticamente si passa più a fare queste cose lì, che poi a usarle le radio. Io ne avevo fatto uno, cioè presente, scusa, quelli che ci sono nei supermercati, quelle scatolette, chiamavano volgarmente scatolette, che c'è il tasto, quando devono parlare dicono il signor tale è pregato di avvicinarsi alla cassa, cioè presente quella scatoletta lì? È un normale microfono con un amplificatore audio. No, non sto parlando di microfono, io parlo della scatoletta, che poi si attacca al microfono vicino. Sì, ma è un diffusore, cioè serve per diffondere comunicati. No, tipo gli interfoni, ne hai mai visti quelli che si usano in locali grandi, che parli? Noi ce l'avevamo in officina, per dire, in due locali ci mettevi con un altoparlante e schiacciavi, l'ascoltavi da lì e lo mandavi via cavo all'altro altoparlante. Ah, sì, va bene, quello ce l'avevo prima che mettessi qua il centralino, era collegato in tutte le stanze, no? Pur non avendo linea telefonica lo utilizzavo per comunicazione. Adesso li ho sostituiti con i cordless della Motorola, e tra poco mi sa che anche quelli partono, li sostituisco ancora una volta tutto quanto con un impianto audio video proprio con chiamata tramite server. No, io ti ripeto, ti spiego, anzi non ti ripeto, quelli lì, noi che avevamo citofoni, cioè avevamo in officina, dall'altra parte dell'officina ti che avvicinati, schiacciavi questo tasto BTT o il loco se lo volevi tenere fisso e parlavi dall'altra parte dell'officina e ti ascoltavano e loro rispondevano, c'era una specie di coso, e rispondevano, loro potevano ascoltare e non ricevere e non trasmettere, e li chiamavi, vieni che c'è il telefono, vieni a fare questo. Mi ho preso uno di quelli lì, ho eliminato tutto il circuito, gli ho messo un amplificatore microfonico, di quelli che vendono da costruire, da assemblare, l'avevo preso, non mi ricordo se quello Futura Elettronica o GBC, non mi ricordo. Gliel'ho messo dentro e ci ho messo un ingresso jack microfonico e l'uscita gli ho attaccato l'attacco a quattro puli in modo che questo qui possa attaccare dei microfoni da voce qualsiasi o da strumento musicale, in modo che lo possa interfacciare utilizzando dei microfoni, quelli classici da che utilizzi quando devi fare un concerto, cosa del genere. Ho capito, più o meno, insomma volevi fare la chiamata generale. No, ho utilizzato quel circuito lì che ci ho messo io, per dire, siccome ho microfoni da voce, oltre ai microfoni qua per baracchini che ne ho diversi, ma di grande qualità tra l'altro, che costano anche un po' di soldini, e ho detto vediamo un pochettino come va la musica, nel senso come funziona, e ho visto che potevi mettere, ho visto, ci puoi mettere qualunque microfono con l'ingresso jack, perché ho fatto solo l'ingresso jack, e utilizzato, e ho visto dei microfoni che io ho pagato un sacco di soldi, della Shure, HPG, microfoni che costano soldi, paragonati a microfoni che tu li ridi in faccia, eppure cacco quel microfono che li ridi in faccia l'ho fatto in 27 e mi ha detto cacco, questo esce meglio di quell'altro della Shure che costava 200 euro o 300 euro per dire il microfono, perché era limitato come risposta in frequenza, però con la risposta in frequenza limitata ti dava una modulazione migliore dello Shure o dell'HPG che erano microfoni professionali. Insomma, attenzione perché la parola professionale è oramai troppo diffusa, in realtà il professionale, i microfoni professionali hanno prezzi da paura. No, io invece guarda, da piccolo, ti parlo di 13 anni, 14 anni, un microfono l'ho proprio costruito, nel senso che ho utilizzato praticamente due pile, non so se ti ricordi le pile a zoccia, ci sono ancora, o quelle quadrate addirittura, le avevo smontate, cioè proprio rotte, e ho tolto quel bastoncino che c'è all'interno di carbone, all'epoca lo potevi fare perché erano delle batterie saline praticamente, non erano con litio, insomma mi sarebbe esplosato la mani. Ho fatto questa operazione e i due carboncini poi li ho messi a croce uno sopra l'altro con un conduttore collegati elettricamente, una piccola batteria e dall'altro capo un coso lì, un altoparlante, senza nessun amplificatore. Tu dovevi vedere la chiarezza di questo impulso, praticamente era un telefono, tu lo sai che i telefoni della quelli per intenderci col combinatore, no? Con la rotella che girava, quelli lì c'era una capsula a carbone. Molti pensavano che si sa cosa c'era dentro, poi c'era una capsula, una banale capsula a carbone nella cornetta che è collegata a una pila e a un altoparlantino. Aveva un'ottima qualità. Sì, sì, i primi microfoni, diciamo, gli albori della microfonia erano microfoni a carbone, diciamo limitati per certe cose, per certe gamme di frequenza, però i primissimi microfoni proprio sono nati a carbone, poi c'è stata tutta l'evoluzione, microfoni dinamici, piezoelettrici, eccetera, eccetera. Quelli funzionavano quando la radio ancora non c'era l'alta fedeltà, per cui andavano più che bene, erano enormi, molte volte grandi, io ne ho uno di quelli grossi, che era in una chiesa, un amplificatore valvolare, ma è tutto in alluminio grosso, peserà 3 kg quel microfono. Cuomani. Chi è avanti? Cuomani. Sta uscendo malissimo, si sentono rumori di cani, di gatti, di topi soprattutto. Guardate, guarda, in vita mia non sono mai uscito male, sempre bene. Peccato che Roberto non ci può fare la spalla, se non ti avrebbe fatto impazzire anche lui, ti avrebbe detto sì sì è vero, ma chi sei? E come che io sia l'ultimo arrivato, non mi sto ascoltando, io mi ascolto sempre prima di entrare, non ti preoccupare, poi questa è radio, tutto di boi, ma che escano male, sono dei muletti, sono. E me cuocuomani, sempre mania di bizzetti, sì. Che non andi a trovare la vittoria in via Tempio. Io vado da Oggiano, ok. Da Oggiano, va. Già vicino, no? Stavo parlando, lo sai, stavo parlando, ho detto, quanto è il record di pizzette in un ordine? E io chiedo via. Allora, un giorno c'ero io e ne hanno ordinato 60. Scusate, dato che ci sei tu Claudio, ti lascio con Roberto che io mi sono dimenticato di andare a cena. Ci sentiamo più tardi. Non lo so, Mari, più tardi non lo so io. Vabbè, comunque buona cena e buon tutto. Claudio, corre di controllo, c'è anche Claudio di Muro, se te lo rilancio, avanti Muro, non c'è più. Non so quanto ne ha fatto il record in una tirata. No, Claudio non l'ho sentito, comunque lo saluto. Ciao Gianfra. No, la cena non è ancora pronta qua. Dimmi quante? 120. E infatti quanto ci ha messo a cucinare? Lui riesce a mettere 12 teglie dentro il forno, c'ha un forno su misura che avevano costruito, proprio il più grande che c'è a Sassari, e riescono a farci fare 37 pizze rotonde. Beh, già lo so, una bella pizzeria quella. E io a volte vado lì oppure a Luna e Sole, di fronte a Fara da Renato, che fa molto buona. Però purtroppo vado a prendermele io perché una volta gliele ordinate e sono arrivate fredde. Perché non trovavo la casa, si era perso nel viottolo, un casino. Capito? E quindi io le telefono, me le preparo, scendo 5 minuti e me le porto via. No, io sono andato a prendere la mia figlia, ho detto, mi gira e gira, ho chiamato la taglia, voi ne avete di pizzette, tanto quando non hai voglia di cucinare, e poi mangio mangiando i papassini di un amico. Anch'io ne ho poche. Anch'io ne ho poche, ma quelle già le rifà. Già le rifà. Poi quando fa il pane, perché a volte fa anche il pane di distrutto, ma tu vedi quanto è buono quel pane. È un pane particolare distrutto con dei pezzettini di carne dentro. Ah, insomma, la metti al forno, la focaccina. Croccantina, robè, cazzo dalle casse e le dita. Ma lui c'ha il forno a legna o elettrico? No, lui c'ha il forno elettrico perché lui ha gestito per tanti anni una pizzeria che c'è ottava, pizzeria ex, no, che si chiama ancora Danilo, quella lì. E quindi l'attrezzatura era la sua e se l'ha portata a casa. C'è una cantina, ha visto la stanza di Cercaverio, lui anziché averla così, lui c'ha cantina, proprio si scende sotto. Ed è attrezzata per fare dolci con questo forno particolare, con questi forni grandi, queste cose così. Fa di tutto. Si sciogo in grassendo, metto un poco d'ora, ma gassa sua. Vabbè, lo faceva per mestiere. Vediamo se il muro si è rientrato avanti. No, stava provando con l'apparecchio che c'era tu gemello, là. Quello, vabbè, non diciamo che cos'è, comunque stavo facendo bene. Ah, sì, quello grigio. No, vanno molto bene quello radio, caspita. Il mio è una cannonata, perfetto. Sono riuscito a illuminare un po' di più lo smitter perché era praticamente cieco, ho messo due led accoppiati, adesso si vede un po' di più e lo uso con l'MC50, te l'ho detto. Va molto bene, molto molto bene, KK, e quindi dai mangiato le bizzette, no, io sono cotolette, stanotte romanese, insalata, un po' di altre cosette, sto aspettando che loro stanno guardando ancora la TV, appena è pronto vado a pappare anche io. Sì, che c'è la Juve alle 9, meno lo so. No, e cosa vuoi dire? Mamma mia, perché me l'hai detto, cazzo? E con chi gioca? Col Sorso? Veneti San Pietroburgo, rientro dalle Coppa dei Campioni, alle 21 e c'è poi Atalanta Manchester, e la Juve era al canale 5, l'altra deve avere Oscar o cosa del genere. Ah, la Juve al canale 5, bene merda, bene merda. Io le metto tutti e due, una me la guardo la parte e una al cellulare. Mi interessa anche l'Atalanta, è una bella partita, perché avevo visto l'andata io, Manchester e Atalanta stanno vincendo 2-0 e poi hanno vinto quelli 3-2. E domani è bella, c'è Milan Porto, quella è bella veramente, perché se Milan perde o non vince è fuori. Iniziamo l'eliminatoria. E quindi c'è, cos'è? Zenit Juventus o Juventus Zenit? Juventus Zenit, se la Juve non perde oggi, teoricamente passa automaticamente, se vince automaticamente è passata, le basta teoricamente un punto se quelli no, gli altri non vincono. La Juve è prima del girone, almeno quella, in Champions sta facendo miracoli, in campionato sta facendo schifo. Due sole cose, come ha detto Giulio, o sta puntando la Champions, non era fottibile nulla del campionato, non lo so. Oh, molte volte succede così, una squadra, è capitato squadre che non vanno bene in campionato, tipo il Chelsea, Liverpool o altre squadre del Tottenham, che avevano vinto la Coppa dei Campioni, in campionato sono arrivati 15-16, però hanno vinto la Coppa dei Campioni. La Juve a questo punto sta succedendo questo, che il Champion sta giocando benino, bene benino, il campionato sta giocando proprio da schifo, capito? Non era fussi bene che non gliene frega niente proprio, non sta donando niente, non stanno facendo niente. Beh, vediamo, perché poi iniziano le salite, perché adesso c'è lo Zenit, ma poi iniziano i gironi dove ci sono quelle squadre che tu ben conosci, no? Quelle forti. Adesso è a girone, tu basta che arrivi primo o secondo passi, però dopo l'eliminazione diretta, a partita andata e ritorno, se sbagli una partita sei fu. Quello è. Come sta andando questo Galassi? Non me lo gioco, va bene. Benissimo, ti ascolto forte e chiaro. E sta facendo quella modifica, quella radio che c'è uguale tu gemello, dice che hanno tagliato un ponte, un diodo, non so che cosa, da 25 è salito a 40 watt la potenza. Infatti si vede il segnale di coso, di Muros è uscito alla grande. Grazie da Tony. Ma di quello che c'ho io grigio, quello per fare che mi hai dato tu, c'ha 120 watt in AM quella radio. Non so quanto sale effettivi, sto parlando effettivi. Chi è che ha parlato? Avanti. Ciao ragazzi, da Tony, mi sentite? Tony. Allora, voi parlate sempre in AM per nascondervi. Chi sei? Non ho capito, Tony. Sì, sono l'amico di Riccardo, mudato, Tony. Ma non lo stiamo durando, sta arrivando a 9,60 qua, un po' distorto sei però. L'antenna è quasi 2 metri, però lo strumento è della Romania, non è un Alan, non è Midna, non è niente. No, ma scusa, hai detto ti chiami Tony tu? Sì, mi sono dato questo nome, ma lo strumento è, ripeto, rumeno, pur essendo di Sassari. Non ti capisco, già, come lo senti? Ma io lo sento con questi B, da 3 a 7 a 9, non so se in macchina. Tony, buonasera, bravissimo. Zona, diciamo, Monte Bianchino, diciamo così, ok. Mi arrivi con QSB, ma sei in macchina? Per vedere se mi sentivate sempre bene e salutarvi. Sì, ma sei in macchina? In questo momento sì, sì. Infatti noto QSB, quindi segnale che sale e scende, quindi sei in movimento, non sei fermo, evidentemente è passato vicino a te. Qua il segnale è da 7, 8, 9, 5. Comunque buonasera, magnificamente bene ti ascolto io, non c'è problema, vai Robert. Sì, no, era per farvi un saluto, vi ascolto meglio che sempre FM, ma vi saluto poi in AM, ma vi saluto, poi esco sempre dalla conversazione. Ma la primina che ti sentiamo, a te non ti ho mai sentito io, sinceramente. Ah, ok, no, mi presento, mi sono dato il nome Tony, radio amatore proprio alle prime armi. Ce ne abbiamo uno qua vicino di radio amatore, avanti l'altro collega. Ma sì, radio amatore patentato o ti definisci radio amatore perché sei amante del radio? Intraprendendo questa cosa piano piano e sto cercando di arrivare ad avere qualche strumento in più e qualche antenna un po' più lunga, addirittura fissa. Poi in Romania si usa molto perché abbiamo molto il fatto della Romania e niente, non funzionano molto i cellulari. Ah, ok, ma non sei radioamatore patentato, sei amante della radio, quindi ti reputi un radioamatore. Ma io queste persone le reputo amatori della radio, quindi tu sei un amatore della radio, radioamatore, io sono un radioamatore attentato dallo Stato. Ok, molto bene, molto bene. Comunque ben vengano queste cose. Se sei amante della radio, portalo avanti questa tua passione. Io sono datato 1973, nel 75 ho percepito la concessione, siamo ancora qua. Se Dio ci lascia, l'unica passione che ho nella mia vita è solo la radio. Altre passioni non ne ho. Avanti Roberto. Sì, una domanda all'amico Toni, come hai toccato, tu non sei patentato, sei solo amante della radio. Sono amante della radio, lo strumento è un TT comprato in Romania e lo uso soprattutto lì. Un PT, non ho capito, scusa. Lo strumento è TTI e viene venduto soprattutto in Romania. Ma tu sei italiano, cioè capisco, almeno dalla voce mi sembra italiano, non mi sembra rumeno. Sì, no, la fidanzata rumena io, quindi ho il TT e lo uso in Romania, ma sono sardo pellizza, fino a Midollo. Cappa, non ti ho mai sentito, la prima volta che sentiamo. Comunque, se vuoi qua su Canale 10, la sera normalmente dalle 6:30 in poi trovi sempre qualcuno, c'è qua, per sentire. In Romania quindi va parecchio la 26. In Romania usiamo molto, appunto, io non me ne intendo, usiamo molto l'FM per il radar e soprattutto riusciamo a sentire molto la radio della polizia, e quindi eventualmente telelaser, cose del genere. Ah, voi lo usate per altri tipi di uso la 26? In Romania sì, in Romania ci diamo, diciamo, i controlli della stradale, eccetera, e poi soprattutto ci sono dei punti, non tanto su Bucarest, ma più su Bacau, Iași, eccetera, che sono dei punti dove non prendono i cellulari, quindi cerchiamo di utilizzare appunto i CB proprio perché i cellulari non hanno questa grande presa. No, non sapevo questa situazione qua. Ok, quindi ma adesso sei qua in Sardegna, dico, sei rientrata? Sì, sono su Sassari, sono qui, sì, mi muovo sempre su Montebianchino, sto a Montebianchino, eccetera, poi il tuo amico, insomma, via radio, ha conosciuto un mio caro amico che si chiama Riccardo Mudano, insomma, quindi diciamo che ci conosciamo un po'. Hai sentito Claudio? Sì, Riccardo Mudano. Perché tu non lo conosci? Ma a me stai dicendo qua. Ehi. E chi è Riccardo Mudano? Secondo te chi è? Il suo soprannome è Casanova. Secondo te chi è? Ma a me stai dicendo questo qua tu. Cazzo, ma ricoglioendoci, ho la vista come tira. E sto dicendo. Se ti copio bene ti sento bello chiaro. Lui non lo sento più. Ma chi, a me? A me non mi senti più. Ho una ricezione un po' scarsa. Ma scusa, non senti, a Claudio, tu sei a Montebianchino adesso? In questo momento sono sulla zona di Viale Dante e San Giuseppe, quindi sono sempre in movimento. Sento te chiaramente, ma non sento lui. Oh, strano, lui, io qua sta arrivando a 9:20, tu Claudio, tu l'ascolti? Sì, basso, adesso lo sento, Santiago 3, 4. Santiago 8. Mi sintonizzo su 10, vi saluto, così almeno ci sentiamo. Io ti ascolto 9:20 perfettamente, non ho capito, hai fatto il nome e cognome di una persona, Claudio, ha detto lui conosci questa persona, e chi è? Io non lo conosco. Già lo conosci. Ma non capivo, scusa la logica, Toni o Toni che ti chiami, come mai tu conosci a questa persona e sai che questa persona conosce a Claudio? Non capisco la logica. No, io su Canale 10 normalmente sento due o tre persone e siete sempre voi, e pensavo, non so se Claudio conoscesse o conosce, se lui quello che conosce Casanova, che sta nella zona poi del Monte, della Questura, è quella zona lì di dove c'è San Francesco, no? Quella zona lì. Sta più su, Riccardo, sta più su, a Monte Bianchino. Cazzo, vabbè, non mi sei arrivato ancora. Ha fatto un altro cognome, là, non si chiama così quello che sta dicendo, che conosco io. Ah, non si chiama così? Allora sta prendendo un granchio, perché neanche io lo conosco. È un cognome, è un nome che però non mi ricordo chi sia. Non so, poi non mi sente più a me. Adesso ti sento, perché ho diminuito con lo switch, sono riuscito a sentirti, diminuendolo un po'. Ho capito. Va bene, va bene. È entrato anche Carlo, vediamo se lo senti Carlo. Buonasera Tony, ma sei in movimento perché io ti sento forte, ma vai tra l'8 e il 9 di Santiago, la radio è sempre buona. Io vi sento tutti bene, sono in movimento e niente, riesco a sentirvi bene tutti quanti, faccio sempre le prove, però adesso che so che siete sul 10, allora uno è Claudio, l'altro è Carlo e l'altro ancora? E l'altro Roberto, sono io il primo che ti ho ascoltato. Una domanda, stai uscendo pulito, qualche limite di potenza avete di linea Romania? Guarda, per me è arabo, io sulla Romania riesco a sentire più veicoli, camion, sull'autostrada riesco a sentire tutti, tutte le conversazioni dei camionisti, eccetera. Allora, lo strumento, come ti ho detto, è rumeno, preso in Romania. L'antenna l'ho comprata da Fusaro, con cui ho un ottimo rapporto da più di 20 anni, ed era una Turbo 2000. Sì, sì, no, ho detto, come in Italia 5 watt di limite di potenza avete o potete attaccare ai lineari amplificatori? Ma in Romania credo che si possano mettere amplificatori anche più potenti. Poi ho visto che molti camionisti hanno scanner, sono pieni di rumeni, sono pieni di tutto. Ok, comunque Carlo, ben risentito, dai, abbiamo un nuovo inquilino, diciamo, sul canale 10. Tony, questo è il suo nome di battaglia, dai. Qui è nominato questo Riccardo Casanova, sinceramente io non l'ho mai sentito. Claudio, chiedo a lui conferma, l'hai mai sentito questo Casanova? No, Riccardo Mulato io dovrei conoscerlo, perché nome e cognome mi dice qualcosa. Però in questo nominativo no, non l'ho mai sentito, non mi ricordo averlo mai sentito. Ma magari è un altro ascolto, è un'altra persona che entra con voi e chiacchiera, che lo conosce di più come Casanova. Ma niente, mi ha fatto piacere sentirmi. Il mio nome comunque è Antonio, il soprannome, il nome diciamo che utilizzo sempre anche su Facebook un po' è Tony. Comunque mi potete vedere, insomma mi trovate un giorno, non so se si possa dire cognome, ma su Facebook mi trovate, così mi vedete anche di viso. Oh, molto bene, sì, anche mio cognato si chiama Antonio, lo chiamiamo Tony, quindi non ci sono problemi Tony. Figurati, io sono Claudio, Roberto e Carlo, ma di solito la sera c'è una grefettina qua che fa due chiacchiere, adesso sono rientrato perché ancora la cena non è pronta, però vi saluto perché mi hanno chiamato proprio in questo istante. Quindi ti saluto Tony, mi ha fatto piacere ascoltarti per la prima volta, quando vuoi siamo qua. Ciao Carlo di nuovo, ben riascoltato, ciao Robby, il cambio per Carlo, per me QRT, ciao ciao. Grazie a tutti, chiudo, buona cena a tutti, grazie, buona serata. Ok, ciao Claudio, io sono entrato un attimo perché la radio era ancora accesa a basso volume, ma adesso mi avvio a vedere la partita, finita di mangiare la pizza, quindi un attimino sono entrato, visto c'era conversazione e giusto per curiosità ho sentito questo nuovo inquilino e tutto qui. Anche io me ne vado in QRT. Ehi, allora io rimango qua acceso qualche minuto, sto facendo altre cose. Comunque saluto a Claudio, buona cena, buon tutto, io l'ho già fatta, aspetto ancora un pochettino, poi mi guardo la partita anche io. Ciao Carlo, piacere sempre riascoltarti. Ok, e saluto anche l'amico Tony o Antonio, come gli si voglia, è sempre piacere ascoltare nuovi personaggi, nuove persone qua sul canale 10. Ricordati che qua la sera dopo le 6:30 c'è sempre qualcuno e sarà un piacere riascoltarti. Ciao di nuovo Tony. Un abbraccio a tutti ragazzi, grazie della nuova ospitalità, un abbraccione, chiudo. Ciao Tony, ciao Roberto, ci sentiamo alle prossime. Io faccio adesso una chiamata, visto che siete andati via, rimango ancora qualche minuto per fare ora, per vedere poi tra poco la partita, faccio una chiamata generale sul 10, attenzione al canale 10, c'era prima Claudio Lamuro, vediamo se per caso è rientrato oppure chiunque vuole rientrare, qua è aperta la porta. Nulla, avanti così, tengo acceso l'apparecchiation finché non vuole entrare qualcuno, se no anche io tra poco chiudo le trasmissioni. Mica che prendi freddo, si apre la porta. Dove? Questo ci mancava, questo è nuovo, di dove sei tu, di che zona sei? Io sono di Sosso Alto. Vicino alla chiesa? Sì, vicino alla chiesa, poi sotto la chiesa ci sono i defunti, capito, che 5-6 anni fa dove si sparsi per strada. Io sono di Sosso Basso. Sì, avanti l'amico. Ciao Roberto, ciao Antonello, avanti. Ciao Mari. Allora, buonasera. Ti Ayoka. Stava tutti di colpo, sono entrati anche Eugenio. Ciao Marina, ciao Eugenio. Eugenio, buonasera, avanti. Chiappa, non sono Eugenio. Ciao Roberto. Ciao Antonello, ciao Marino, poi non so che ci sia altro. Niente, Franco da Sosso, avanti Roberto. Ah, c'hanno lo stesso segnale di coso, io adesso sto memorizzando il segnale. Lo stesso segnale di Eugenio, non ho sentito la voce, però pensavo fosse Eugenio. Ciao Franco, ben sentito. Comunque l'amico di Sorso Alto te lo rilancio, vai Antonello. Ciao Fra, saluto neanche a te, ben sentito. Saluto neanche a Marino, sto appena rientrato, era in Girella. Ebbene Robè, cosa stai combinando di bello? Aspetta Robè, ma mi saluta Franco il Sosso, eh. Beh, Franco, Franco Franchi. Ehi, ciao Claudio. Ehi, ciao, buonasera, mi ascoltato, sono qua sempre, sono qua, stavo, sono passato un attimo in cucina, sto andando col baracchino piccolo, gli altri sono tutti spenti. Stai bene, sì, tutto a posto? Tutto a posto, Claudio, tutto bene. Mi sono salito adesso, che sono andato in terrazza per fare cosa, e vabbè, adesso a vedere se c'è qualcuno. Ho acceso e ce l'ho sentito allora, ho sentito. Bene, bene, e tu? Tutto a posto, sì? Tutto a posto, tutto a posto, tutto K di Rogero, va bene, dai. Ciao anche Antonello, riprendi o Carlo, fai girare, dai. Ciao Franco, ci sentiamo le prossimine, già sono qua comunque. Appa, ciao, ciao, ci sentiamo. Avanti Carlo, se non erro, ha detto Claudio. Carlo ha chiuso anche l'amico nuovo che è entrato questo tunnel, Antonio che si chiama, è nuovo, e sta posando un apparato rumeno, dice lui, dalla Romania, è venuto. Sì, ho capito, però non capisco questo apparato rumeno. Romania non sarà radio nostra, non lo so, vabbè. Riprendi Antonè, fai girare, dai, sono qua comunque. Io ciao Claudio, saluto neanche a te per ascoltarlo. Cappa, cappa, già va bene, Marino, avanti. Riprendo e chiudo perché mi stavo chiamando per la cena. Ciao Claudio, ciao Franco, e riprendi Roberto, va. Io anche io sto facendo ora, tra qualche minuto vado e c'è la partita a canale 5 e poi su un altro canale ci possiamo vedere anche Manchester United Atalanta, chi interessa il calcio. E vai per i saluti Franco a Marino e poi Antonio, Antonello. Ehi chiappa, ciao Marino, se stai chiudendo, ciao, ci sentiamo alle prossimine. Chiappa, avanti Antonello. Ehi, ciao Marino, ci sentiamo, buona cena, buon tutto. A me le partite proprio non mi piacciono, mi piace, guarda, no? Quando andavo un po' di tempo fa, andavo lì al circo da Nico, quando c'era la Juventus, diventava scemo, diventava, ti prendeva parolacce pure, ti prendeva, ma cosa cazzo ne capisci tu, diceva, la Juventus è così, voi avete venduto tutto, era un piscio, era. Che circo andavi? Carico lì alla Lunghia Nera. Lui è fissato con la Juventus, qua è a toccargliela, è come se fosse, che gli fosse toccando l'unghia. Va bene, va bene, ciao Luca. Siamo un po', chi c'è? Io Roberto e poi ho perso tutto il coso perché due o tre se ne sono andati a cena. Vabbè, chi è rimasto? Non me la metto più avanti. Vabbè, dimmi qua. Vabbè, che rimanga l'ascolto, già ci sentiamo un altro momento, già hai capito. Ciao Antonè, ciao Lugariello mi sembra. Ciao Roberto, ciao anche a Carlo, ciao, un abbraccio grande a Franco, ciao ciao. Ti prendo io, ciao Claudia, ci sentiamo, dai, già ci vediamo spesso con te. Ciao Luca, siamo rimasti io, Luca, Antonello e Franco. Claudio è andato via, Marino è andato via, prima c'era un po' di gente, c'era anche qualcuno di nuovo. E Antonello mi ha detto, invia questo ciclo, dov'è? Via Torino. Ah, ho capito, vabbè, mia nonna abitava di lì, via Napoli, mi via Napoli, via Napoli, all'angolo con via Torino, ho fatto tutta l'infanzia di lì, già ho capito, e cosa, Rubinata ancora ci va di lì? Rubinata, chi è Rubinata? Felice. Non lo conosco la verità io, Felice, ci va Roberto Beligabelli lì, ci va a me. Ma ancora aperto quel ciclo? A voglia. Quindi ci andava poi per un periodo Roosevelt, per corso. Sì, vabbè, a parte quello, poi ci andava anche cosa, un sacco. Una volta era, ci andava un sacco di gente, poi andando piano piano per, diciamo, per gli anni è cominciato a calare, capito? Comunque ci sono sempre gli stessi più che altro, capito? Cioè c'era gente. Ma tu credi a Pomponio? Certo che deve credere, perché caro, dimmi. Lascia perdere. Buonasera Antonello, buonasera a tutti. Barracuda da Ussi. Cazzo. Ciao Barracu, saluzioni, dopo tanto. Ah Robè, su conta, stamattina ho iniziato il computer, vabbè, ti ho cambiato la pasta di raffreddamento, tutto quanto, ho pulito l'avvento, tutto quanto, ho provato la bellezza di 4 hard disk miei grandi, più ne avrò se o no 8, 10 di quelli di portatili che vanno bene uguale, tutti hanno lo stesso problema. Tu pensa, oh, tutti quegli hard disk danneggiati. Vabbè, sì, dimmi. Capo, dai, vi lascio che sto andando a mangiare. Ci sentiamo. Ciao Luca, ben ascoltato anche a te. Niente, vi saluto tutti e ci ascoltiamo. Ciao Antonello, Luca e Roberto. Ciao anche a Claudio, non ho sentito che ha chiuso. Riprendi Roberto. Ciao Fabio, hai sentito, fatti sentire più spesso, che è sempre un piacere ascoltarti. Facciamo salutare gli altri, vai Luca e Antonello per salutare l'altro Antonello Barracuda, per salutare la cosa, Franco di Sosa. Sì, ciao Fra, saluto e ciao anche a Claudio. Avanti Antonello. Capa, buonasera, anche se lo sento un piccolo piccolo da parte mia, da Sorso, comunque buonasera Barracuda. Se mi ascolti non credo. Mi sa che ascolta male appena a me. Vabbè, dai. Anche qua arrivi in basso comunque Antonè. Prima mi arrivavi meglio. Arrivi molto basso, vabbè, non so perché. Avanti, Pompo. Ehi, ciao Fra, ci sentiamo, buonasera, buon tutto. No, qua Antonello mi arriva forte. 9 più 20, vabbè, ce l'ho di fronte io, quindi. A seconda della posizione. Avanti Antonè. Che fine avevi fatto? Sparito la circolazione? Meno male c'è rientrata, meno. No, giustamente ho cambiato domicilio, tra una sistemazione e l'altra, poi la zona è cambiata, tutto quanto, dunque un pochettino il mio segnale è cambiato, ma già non è problema, posso tranquillamente aumentare la verità. Sto usando un dipolo, dunque va anche bene per il momento. E dunque piccoli spostamenti, cambiamenti di vite, dunque per quello che era un po', tra virgolette, messo da parte, ma la radio non si abbandona, ci ho trovato l'occasione giusta, il tema in questi giorni tutto il resto ed eccomi qua. Poi appena posso metto l'antenna sul tetto, dunque le cose migliorano, ecco, alla fine. L'importante è sentirci per il momento, poi piano piano mi organizzo. Cazzo, ma sempre cambiato casa, sai tu, fai come le scarpe, ogni tanto ogni 2-3 mesi quindi cambi il paio. Antonio, purtroppo la vita cambia, ci sono degli imprevisti e dunque bisogna comportarsi di conseguenza. Tutto lì, no? Adesso già è vista la natura durante, finché Dio mi lascia in questa terra, dunque rimango qua. Ah, meglio così, ma non sei più vicino alla piazzetta, sei più in alto adesso. No, adesso sono zona centro storico del paese, meno male la zona in cui sono nato, alla fine prima ero letteraria, adesso qua al centro del paese. Antonio, stava sì, Santiago 6 e mezzo, Radio 4, ciao a tutti. Ciao Marino. Luca. Ciao Marino, dimmi Robè. Ma sei sicuro che il problema dipenda solo dall'hard disk? Secondo te? No, io sto facendo domanda da ignorante. Ne hai messo 5, tutti e 5 in router. Sì, li avevo già provati in un altro computer, Robè. Capito, e facciamo lo stesso problema. Sì, sono danneggiati, ma riparte. Arriva al 20% e poi mi dice che l'hard disk è danneggiato. E non funziona, Olu. Allora, l'ho già spiegato a Roberto, il tuo ha acceso per 3 volte a Windows, perfettamente. Poi cosa è successo? Ho fatto il riavvio e praticamente mi faceva schermata blu, mi andava in crash. Fa vedere in italiano che non ti comprendo, funziona o non funziona? No, non funziona, Claudio, l'ho già detto a Roberto, bisogna cambiare l'hard disk. E quindi? È costoso? No, cosa costoso? Non so, ci ha pagato 20 euro, boh. Ah, fermo era. Quel computer io l'ho spento, poi niente, non ho più accesso. Sarà un anno buttato a destra, a sinistra, a casa, poi è arrivato qua, l'ho messo lì nella stanza del Caverio. Anzi, fortunatamente era coperto, se no era caduto un mottone di Buer. Vabbè, mettilo a posto già, una volta mettilo al dischero, beh, è nuovo quel computer, te lo fa nuovo Luca. Allora, aspetta, allora Robè, allora ho fatto un'altra cosa, per quanto riguarda, vabbè, la scheda video, quella va bene, è ventilata anche meglio. Se io porto a 4 giga di RAM, succede che suona, fa pipipi, a volte non ce la fa, boh, non lo so. Comunque, portando a 4 giga di RAM, non... poi aumenta anche la velocità della ventola di raffreddamento, poi c'è il processo lì, ma proprio ben forte. Allora l'ho riportato di nuovo come la prima, a 3, è perfetto, funziona benissimo, non fa questi bip continui, e in più la ventola fa i suoi giri normali, come fa un classico computer. E la scheda madre, Luca, va bene? Sì, a voi, la scheda è apposta. La scheda è Lenovo, Robert, non stiamo parlando di un PC. Allora, ho notato che, siccome l'ho smontato davanti, c'era qualcosa in plastica, no? Per levarne il lettore DVD, perché era inchiodato. Secondo te Claudio non lo usava, comunque tu l'ho sbloccato. E ho notato che lì è tutto arrugginito, un po' arrugginito. Vabbè, non te ne frega niente, tanto c'è quel tappo che lo copre. No, non l'ho mai usata io quella, no, Luca. Lettore DVD, ma l'ho usato là. Oh, non ce lo manca indietro. Vabbè, è inchiodato, comunque lascia a posto, va. Vabbè, la scheda madre funziona, ma mi sembra che era da 3, non da 4, quello, quando me l'hai detto tu. Quindi lascialo da 3, funzionava benissimo, era anche un bel veloce. Sì, infatti lo lascio a 3. Allora, poi arrivo l'hard disk, speriamo che... Ma non penso che sia un problema di computer, assolutamente. Se è il problema di computer non fa quel problema lì, fa altri problemi, roba. Poi nel caso che non va bene, me lo prendo io quella discreta, lo pago e via. Ma dovrebbe andare comunque, non ti preoccupare. No, dai, già sono le tue mani, non mi preoccupo, là, non c'è problema. L'ho preso da 500 GB di memoria, come metto tu l'ingresso SATA, cos'hai? Noi abbiamo le pistole per iniziare SATA, per quanto ne capisco io, e dovrebbe arrivare o venerdì o lunedì massimo. Allora, l'ingresso, vabbè, il connettore, diciamo, chiamalo così come vuoi, l'ingresso comunque, cioè a AID, c'è scritto IDE, e appunto, cioè questo qua è quelli a contatti, cosa ti posso dire, come... Come te lo posso fare? Cioè, non è l'attacco vecchio, capito? È l'attacco di ultima generazione. Comunque io ti avrei consigliato di più un SSD per quel computer lì, vabbè, ormai è tardi. Vabbè Luca, già lo so cosa mi serve, non devo annudare in particolare. Quando mi serve un computer per certe altre cose, che prendo un altro portatilino, finché dura lì ce lo tengo. Ne abbiamo 3 o 4 a casa dei PC. Però signori, io me ne devo andare, vi saluto, grazie del tuo. Ciao Luca, ciao Gianni. Gianni, cosa c'entra Gianni adesso? Antonello Barracuda, Antonello Pomponio e tutti gli eventuali qua amici. Ciao Claudio, eccetera eccetera. Io chiudo che adesso vado a vedermi la partita. Buon proseguo a tutti. Ciao Robè, anch'io vado a vedere la partita, che in Champions sta facendo più bella figura del campionato la Juve, visto che è prima del girone. Se passa anche oggi, fino adesso non ne ha perso neanche una. Almeno quello sta dimostrando di esserci in Champions, campionato va di schifo. Ciao ragazzi, ci sentiamo, ciao Antonio Barracuda, Antonio Motopompa, a Franco l'avevo già salutato, a te Roberto e a Luca. Ok, statene bene, anch'io chiudo. Avanti Antonio, se mi ascolti, Barracuda. Va bene, buon proseguimento e buona TV. Ciao Antonio, ti arrivo bene col Galaxy? A voglia, da poco poco pindata, ce n'è per i maiali, perfetto, bellissimo. Questo è il Galaxy, ho detto, ogni tanto lo metto in uso, il Galaxy Attornecco, portare più 3B, ok, vi saluto, sì, vado a cenare, io ancora non ho cenato, lo stavamo preparando, adesso vado a cenare e così poi mi guardo anche uno straccio di partita, ma c'è anche l'Atalanta, voglio vedere anche quella. Luca, a te il mic, se ti serve quel pennino o qualche altra cosa, dimmelo che te lo porto, ok? No, serve, vabbè, c'è un... si chiama? Un adattatore USB, scusate, del mouse quello, boh. Vabbè, con quelli. E poi mi servirebbe la cosa, la pennina wifi. Appena wifi ce l'ha Roberto, quindi devo passare da lui o se passi tu te la prendi tu, ce l'ha Roberto, l'ho dato tutto a lui, se no me la deve dare a me, te la devo portare io, però ti ripeto, in questi giorni sono incasinato presso e sono anche a piedi, poi sto facendo lavori a casa e quindi sono nella merda totale, capito? Però dillo a Roberto e magari te la scende lui, vi mettete d'accordo e te la scende lui, capito? Perché ce l'ha lui, non ce l'ho io a casa. Ok, sì, quella che c'è davanti nella porta USB, quello lì è del mouse, me l'avevi data tu assieme al mouse. Sicuramente sì. Sì, va bene, tanto mi deve portare l'hard disk quando arriva. Per prima volta il PC è tutto pulito dentro, tutto fatto, tutto a posto, la batteria a tampone è a posto, tutto a posto, manca l'hard disk e basta, installare il sistema operativo. E poi del resto va bene. E allora, metti eccolo con lui, la pennina l'ho data a lui, la tastiera c'era lui, c'ha tutto lui, gli ho dato completo di tutto, ok? Ciao a tutti signori, buonanotte, ci sentiamo alle prossimine, vai motopompa! E io ciao Cla, alle prossime ci sentiamo. Che andrà bene, siamo se c'è ancora Antonella. Dimmi tutto Pompo, che le va così la modulazione? Ciao Cla, alla prossima. E io a voglia. A me sta arrivando segnale 3 modulati a 5 quasi. Non so come ti arrivo io, sto già un po' chi va, avanti Antonella. Capo, tu sei Santiago 7 e mezzo, Radio 5 da parte mia. Tieni presente che sono in un centro storico e dunque arrivi molto bene e sto usando un dipolo. Dunque tutto lì va più che bene. Bello, forte e chiaro, sempre la tua bellissima modulazione. Ho messo un piccolo aiuto, ma sto uscendo con 13 watt, dai, una cosa del genere, non di più. Sì, anche la tua è bella, la radio Super 5 è bella, bella potente. E segnale, te l'ho detto, 3 a picchi positivi e quasi 5, dai. Va bene, avanti, boom, boom, scusi. Sì, però aspetta, utilizzando il Cobra pilotato a 1 watt col BV131, questo lo puoi regolare da 1 a 5 watt. Adesso è pilotato a 1 watt. Sì, la radio va bene, Antonio, a voglia, ce l'hai per i porci, avanti, pum pum. Bene, a voglia, sta facendo benissimo, ci mancherebbe. Esce a bombola, proprio a bombola. Vabbè, c'è tutto di questo, è stata una zona, vabbè, ultima per me. Io si lo prendo in pieno, da qua. Quindi ce l'ho proprio di fronte. Se prendo il binocolo, capito, o il laser, già lo vede, Antonello. E a voglia, sì, dai. Vabbè, prima era una zona molto strategica, ero quasi nella punta dei Literai, ci sono zone ancora un pochettino più alte, però dicevo, bene o male, a 360 gradi, qui bisogna superare alcuni ostacoli. Adesso, quando mi organizzo che trovo un buon tubo telescopico, perché quello che ci sono in zona sinceramente non servono a niente, ora posso benissimo posizionare l'antenna sul tetto e garantisco che il segnale torna come prima, pur essendo al centro storico e utilizzando anche il dipolo che sto utilizzando. La verità funziona veramente bene. Dunque se fa magie in questo buco, immaginati sopra il tetto. Un buon tubo telescopico come devo trovare, e allora il problema l'ho risolto. Adesso ho l'antenna piazzata in un terrazzo, non sul tetto. Già lo trovi il tubo lì, poi dove abitavi tu, ma una volta c'era la caserma dei carabinieri, se ti ricordi, quindi figurati se non esci lì. E non come, io sono nella zona di piazza, appena più in su. Te lo sto dicendo, una volta lì c'era la caserma dei carabinieri, lo dico tanto tempo fa, ma io ti parlo degli anni 80, 70-80, una cosa del genere. C'era proprio la caserma, era lì, nella piazzetta. Dopodiché siamo trasferiti nella zona nuova, dove sono adesso. Ah, dove sei sparito? Avanti Luca. Tutto bruciato. No, lo sento come se fossi il frate. Vaffanculo, sull'11 ero. Guardi, subito, che devo uscire da camera. Dove sono visti? Io sono 10. Ma sto uscendo? Bravo. Sì, stai uscendo adesso, ma poco fa lì, in un altro canale. Come diavolo hai fatto a cambiare canale? Cosa ne so? Ha detto che è strano, boh, non ho toccato niente. Vabbè. Avanti, dunque, cosa stavi dicendo poco fa? È sparito. Tuia, siamo andati bene. Si è cominciato a venire il fresco, Antonemi. Andiamo adesso, dobbiamo avere un pochettino di freschetto. Antonello? Sì, dimmi tutto, scusami un po', cioè, mi stavo mandando un messaggio a mia sorella, a un assillo. Ah, sei come... sei un assillo, iaia, al telefono, sì. Ah, intanto mi manda questi messaggi, e guarda, credimi, guarda, lascia perdere. Comunque, eccomi qua. E tu Antonello, cosa mi racconti di bello, come va? Andando così sto cercando lavoro, si sta trovando, ma non c'è niente, no? Ho fatto un sacco di cose, mi ha dato curriculum per telefono, tutte queste aziende strane, cazzo, l'idol, cosa, non riesco a capire, no? E poi vai a controllare in fondo c'è pubblicità e roba, è tutta roba spagnola, tutte prese per il culo, so. Ah, ma lì su internet, ma lascia perdere, devi... Oh, mi dispiace, lo sai cos'è, bisogna buttarsi a qualsiasi cosa, Antone, tanto poi alla fine ogni lavoro è sempre dignitoso, anche lavare in terra, o come ho fatto io da poco, ho assistito delle persone anziane, e ti puoi solo immaginare, no? Già lo sai anche tu cosa mi riferisco. E se cerchi qualcosa c'è anche per fare assistenza agli anziani a domicilio, a dormire, a fargli la spesa, tante cose, anche quello lì è lavoro alla fine. Bisogna buttarsi, tutto lì. Adattarsi un po' alla situazione che si vive intorno, ecco, questo è bene o male. È un piccolo segreto, tra virgolette, ma non c'è altra soluzione, Antone, credimi. Ho già fatto, io l'ho fatto già 3 anni, non ero pieno di quel lavoro fatto a casa io. Prima ci è passato mio padre, dopo mio padre ci è passata mia madre, dopo mia madre ci è passata mio fratello, quindi capito, no, le balle in piedi, proprio le balle piene, quindi non so, adesso mio fratello l'ho mollata, mia sorella ha detto, arrangiati tu, non voglio sapere nulla io. Fa quello che devi fare, gli ho detto, non voglio sapere niente. E lo so. Io ne ho assistito 1, 2, 3, uno per 2 anni, gli altri per un po' di mesi, no, anzi scusami, 4. E poi ho lavorato così, ho fatto un piccolo tirocinio, partendo dall'ufficio di collocamento in casa di riposo per 8 mesi, dunque, dove c'erano 60 pazienti, Antonè, altri vengono chiamati ospiti, ti puoi immaginare, 60 persone e 60 malattie, una diversa dall'altra. Già ti capisco. Sì, specialmente l'Alzheimer e altre cose varie. È diventato insopportabile quel coso lì, ma se l'ho fatto la letta che ciò basta, no, non ne faccio più di quei lavori lì. Non ne vale neanche più la pena, capito? Va bene, dai, ti lascio che vado a cenare. Ci sentiamo al limite domani, senti, a baracchina. Entri, verso le 6:30, 7, già entro anch'io, già non c'è problema. Adesso ci sentiamo, alle 8:30. Ci facciamo la chiacchierata. Adesso io, mi sembra 4-5 giorni che non entravo, cioè, stavo facendo roba in casa, sto spingendo l'appartamento, almeno qualcosa faccio, dato che non si può fare altro. Dammelo quello che faccio, mi risparmio un po' di soldi, mi sto vendicando le porte, finestre, quello che c'è, quando fa bel tempo naturalmente, perché quando piove un tubo io ne vendicio roba. Scusami Antonè, mi hanno chiamato un attimo al telefono, arrivo subito, scusami un attimo. E fai pure, tanto sono andato a mangiare io adesso. Ci sentiamo al limite domani, dai. D'accordo, allora, buona cena. Ci sentiamo domani. E via, ciao, a domani. Ciao, appetito Antonio.